Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese. Scrivo a proposito del decreto legge contro la prostituzione, voluto dal ministro per le pari opportunità Mara Carfagna. Era ora. Ci voleva una donna per togliere questa vergogna dalle strade. La periferia che convive con questa realtà è grata a coloro che ci libereranno dal degrado e dallo scempio morale. Nel mio quartiere in periferia si possono scegliere prestazioni in pieno giorno, davanti al parco gioco dei bimbi, prostitute bianche, nere o minorenni, con tariffe diverse. È facile parlare per coloro che non convivono con questa realtà. Tutti sempre buoni, sulla pelle degli altri. Cordiali saluti, Rosines. Ma come vi permettete di apostrofare i precari della scuola con tale sufficienza? Ma sapete chi sono i precari? Insegnanti plurispecializzati che per colpa di una politica scellerata dei vari governi negli ultimi 15 anni si ritrovano ancora dopo 10-15 anni di precariato ad essere assunti a settembre e licenziati a giugno. Chi vi parla è una insegnante di anni 42, laureata con 110 lode, 5 specializzazioni, italiano e storia, latino, storia dell'arte, educazione musicale, una decina di master presso università accreditate, specializzazione sul sostegno, 2 concorsi per esami e titoli, biennio di specializzazione alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario. La verità ve la dico io. Bisogna tagliare 80.000 posti di lavoro nella scuola, altrimenti come si pagano i debiti di Alitalia, le multe per Rete4, eccetera, eccetera? Vergognatevi. Per quanto mi riguarda, spero tanto di trasferirmi all'estero. Claudia. Scrivo a proposito del tentativo di riforma della scuola da parte della ministra Gelmini. Alle elezioni della scorsa primavera ho votato centrosinistra, ma devo ammettere che l'azione della ministra Gelmini mi trova d'accordo, in modo particolare quando tuona contro l'eccessivo peso delle spese salariali nel mondo dell'istruzione, definendo la scuola italiana lo stipendificio nazionale. Trovo giusto l'accorpamento delle scuole piccole e la cancellazione di 87.000 cattedre, così come considero stupide le polemiche sul maestro unico e il ripristino del voto in condotta. I nostri nonni e genitori hanno avuto il maestro unico, una persona che aveva la vocazione per quel mestiere, come giustamente la ministra Gelmini afferma definendola necessaria per chi vuole insegnare, e non credo che abbiano sofferto dei particolari disagi emotivi, sbandierati da psicologi e intellettualoidi da salotto di talk show. Se gli insegnanti attuali non hanno la vocazione, ma solo l'ambizione al posto e allo stipendio fisso, si faccia posto a chi invece vuole insegnare. E le puerili e infantili, è proprio il caso di dirlo, polemiche sul voto in condotta. Ripensandoci, sembra di parlare di preistoria. Ma una volta, se ci si comportava male a scuola, si prendeva un ceffone, e a casa se ne prendevano due, uno perché eravamo stati maleducati, e l'altro perché eravamo stati una vergogna per la famiglia. Ora non è più così, purtroppo. Ora passa chiunque abbia dei voti superiori alla sufficienza, anche se si diverte a devastare aule, vessare i cosiddetti secchioni o sfigati e statteggia a guapo. E che dire poi delle polemiche sull'insegnamento della Costituzione e dell'educazione civica? Ma come? Le massime autorità sbandierano tanto la trasmissione dei valori costituzionali alle nuove generazioni e poi quando si propone di insegnarla a scuola si dice che non va bene? Ma siamo così ipocriti e ridicoli. E come non essere fieri, infine, delle nostre università, dopo che l'OCSE ha reso noto i suoi successi? È da oltre 15 anni che si dice di voler aumentare il numero dei laureati italiani, e con che risultati? E cosa hanno fatto i vari governi passati nel corso degli anni? Hanno liceizzato le università, di fatto declassandone il livello, come si può ben vedere. La sciagurata riforma Berlinguer e le successive manovre dei suoi successori, una politica di finanziamento a pioggia del tutto scriteriata e il baronato universitario, hanno trasformato ciò che nel resto del mondo è un elemento importante per la crescita delle nuove generazioni in un buco nero che inghiotte troppi soldi e che non offre effettive garanzie future, come avviene invece nel resto d'Europa e nel mondo. Ma per quale diavolo di motivo in Italia si cerca di fermare chi vuole mettere uno stop a questo degrado da giungla, fatto di sanguisughe affamate di soldi e parassiti? Perché in Italia c'è questa stupidità mista a masochismo? La Thatcher diceva che i problemi non riguardano la società, la famiglia o le istituzioni, ma le singole persone. Credo che questa frase non sia mai stata più calzante per capire qual è il problema della scuola italiana. Cordiali saluti, lettera firmata. Faccio l'autotranviere alla Trambus di Roma, società di proprietà del comune, controllata da ATAC, sempre del comune di Roma. Faccio parte di quella generazione di lavoratori che hanno subito le riforme del lavoro sia in termini economici che in termini normativi, con l'introduzione dei famosi contratti atipici, come i part-time con natura diversa. Da quando sono entrato, la solfa sindacale è sempre la stessa, e cioè che il lavoro è cambiato, i soldi purtroppo non sono più quelli, le regole sono quest'altre. Insomma, siamo oramai convinti che stiamo pagando gli innumerevoli danni che le generazioni passate, in quanto a politica e sindacato, hanno perpetrato. Voi dite che il costo sociale è il maggior freno per la crescita di un'azienda, e su questo si potrebbe anche discutere. Così siamo arrivati a autisti che guadagnano 900 euro al mese prendendosi delle responsabilità che in altri tempi nessuno si sarebbe preso. Siamo d'accordo su tutto, e quindi lo stipendificio non deve avere questo peso, o quantomeno deve avere certe regole. E la politica e i sindacati negli ultimi anni si sono messi a tavolino per cercare sia l'una che gli altri di avere certe garanzie a determinate regole. Come saprete, a giugno è stato eletto sindaco di Roma Alemanno, e quindi, come è giusto che sia, i vincitori spetta la decisione di tante poltrone, e anche di quelle aziende che non sono più comunali ma che hanno un unico socio, il comune. Arriva dunque Alemanno, che nomina il nuovo CDA della Trambus S.P.A., e quindi nuovo amministratore delegato è un certo Bertucci, che si insedia intorno a luglio. Fino a qui nessun problema, ma il vecchio amministratore delegato, nominato dalla vecchia giunta di centrosinistra, ovvero Tullio Tulli, il reuccio del trasporto pubblico romano che è amministratore delegato di Trambus ma anche direttore dell'Agenzia del Trasporto di Roma, non intende lasciare, forte del suo contratto a peso d'oro e della buona uscita che prenderà una volta andato via. Tutto il vecchio consiglio d'amministrazione è scomparso, ricollocato nelle varie segreterie, tra cui alcuni eletti deputati, tipo l'onorevole Ranucci, mentre il reuccio non vuole lasciare. La domanda è la seguente. Tutti i politici e i sindacati si stanno sgolando che il costo sociale purtroppo deve essere abbattuto e quindi ecco i contratti da fame, a termine, part-time, agenzie interinali gestite dai sindacati. Come mai due amministratori delegati non pesano sul costo sociale dell'azienda e invece due autisti sono troppi per una linea? Lo sapete che con lo stipendio del reuccio, il signor Tullio Tulli, si possono assumere una ventina di conducenti, dato che dicono che stiamo sempre sotto con il personale? E riguardo alla truffa ai danni dei contribuenti, di cui all'inizio, la Trambus ha un contratto di servizio con il comune, che alla fine dell'anno paga e quindi con quei soldi si pagano anche due amministratori delegati. Andrea, Roma. Ho letto sul Sole 24 Ore che Berlusconi deve pagare le spese di giudizio all'Economist che aveva querelato per diffamazione. Nessun grande giornale ha riportato questa ghiotta notizia. Perché? È evidentissimo che quasi tutti i giornalisti provano verso il Premier un forte timore reverenziale. Anzi, una vera e propria paura. Lo si vede chiaramente nelle interviste, dalle domande nelle conferenze, dagli articoli soft sui giornali. Parlo ovviamente dei giornali di opposizione, degli altri c'è solo da vergognarsi. Dai commenti alle sue gaffe. Perché? Cosa temono? Mortificano i principi del loro lavoro, che sono figli prediletti della libertà, e per che cosa? Non credo assolutamente che tutti siano pagati o che sperino di essere pagati meglio. Non mi resta che riflettere sulla famosa frase: per alcuni il desiderio di servire è più forte dell'interesse a servire. Complimenti al Sole 24 Ore online per aver dato questa notizia. Saluti, Giuseppe. Caro direttore, ho saputo per vie private che la moglie di Sirkan, nel momento in cui suo marito diventò portavoce del governo Prodi, aprì un'azienda di lobbismo. Ufficialmente credo consulenze normative e rapporti con il Parlamento o qualcosa del genere. Lo scopo di questa azienda era di tenere informati i propri clienti sulle attività del Parlamento e del governo, in particolare sull'emanazione di nuove leggi prima che vengano effettivamente promulgate, per permettere ai propri clienti di farsi trovare pronti o viceversa di tentare di far cambiare idea ai politici legiferandi. Mi risulta che questa azienda abbia fatturato milioni di euro già nel primo anno di attività. Non potrebbe trattarsi perlomeno di concorrenza sleale? Non esiste l'equivalente dell'insider trading nella borsa? E la divulgazione del segreto d'ufficio, dove la mettiamo? Ora, tutto ciò è perfettamente legale, a patto che non si usino bustarelle per forzare la promulgazione di una legge o per evitarne un'altra, ma io mi domando, Come mai questa notizia non l'ho mai sentita dire ad un telegiornale, ad un radiogiornale, ad un quotidiano e nemmeno da Striscia la Notizia? Ma non dovrebbero essere queste le cose di cui i cittadini dovrebbero essere messi al corrente? Che la moglie del portavoce del governo abbia un'attività di lobbismo non è più interessante di tante notizie che sentiamo tutti i giorni? Lettera firmata. Buongiorno direttore. Da elettore di sinistra devo dire che martedì sera in TV D'Alema ha fatto proprio la figura dell'asino. Dopo che i sondaggi e gli opinionisti gli avevano spiegato che in Italia, ma credo anche altrove, la maggior parte dei cittadini vogliono che lo Stato faccia lo Stato, ci vuole veramente il pelo sullo stomaco per affermare che la pulizia di Napoli è stata fatta per merito di Prodi. Tecnicamente il decreto del precedente governo può anche avere accelerato certe procedure, ma mi pare fuori di discussione che la svolta si sia avuta quando le discariche dichiarate siti militari sono state sottratte al veto di chiunque ne volesse mettere uno, magari per validi principi, ma pur sempre a discapito degli interessi dei più. Come gli ha fatto notare Tremonti, temo che se D'Alema non riesce a capire questo, non capirà mai perché continua a perdere le elezioni. Forse dovrebbe capire anche che i politicamente incerti, come me, cioè quelli non ideologicamente schierati a priori e che romanticamente, credendo alle sirene della campagna elettorale, si spostano di elezione in elezione da uno schieramento all'altro, ci penseranno bene prima di avventurarsi ancora con questa sinistra. Almeno dall'altra parte qualcosa decidono, e non credo che pur impegnandosi riescano a decidere tutto sbagliato. Noi elettori di centrosinistra dovremmo porre fine all'equazione che se qualcuno eletto democraticamente decide per qualcun altro senza averne per forza il benestare, allora vuol dire che è autoritario. Forse è solo autorevole. E forse è quello che deve essere lo Stato in primis e le sue istituzioni a seguire senza scomodare il nostro scomodo passato. Cordiali saluti. Giuliano, un elettore del PD pentito. Scrivo a proposito dello spinoso problema Alitalia. Per il nostro paese, non avere una compagnia aerea che produca passeggeri dalle maggiori destinazioni del mondo si tradurrà in una contrazione del traffico turistico e d'affari o, nella migliore delle ipotesi, in una mancata crescita. Situazione che nel breve medio periodo metterà a rischio ben altro che 5.000 posti di lavoro. Di fatto qui, più che salvare l'Italia, si sta salvando Air One. Gli investitori e le banche riprenderanno i loro soldi, bisognerà poi vedere quanti ne metteranno effettivamente, grazie alle tratte Roma-Milano e Milano-Roma, che torneranno ad essere operative in regime di pseudo-monopolio. Lettera firmata. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.